Effetto Mondo. Across the country, citizens voted in large numbers. They showed a watching world the vitality of America's democracy and the strides we have made toward a more perfect union. Avete riconosciuto tutti George Bush Jr., giusto? Sì, era il giorno dopo le elezioni, dopo. Ma 12 anni fa, nel 2008. Quando vinse Obama. E lì ovviamente la vittoria era più chiara, però comunque Bush il giorno dopo, aspettò il giorno dopo e poi disse queste parole, dopo che già John McCain, l'avevamo fatto sentire qua qualche tempo fa, aveva detto che provava sincera ammirazione per il fatto che Obama fosse riuscito a portare alle urne così tante persone. E anche George Bush diceva: il mondo stava guardando e abbiamo dimostrato al mondo quanto è vitale la nostra democrazia. Adesso dobbiamo lavorare tutti come nazione. George Bush, lo ricordiamo, è un repubblicano, non si è speso assolutamente in questa campagna elettorale e secondo me qualcuno glielo rinfaccerà, perché era apertamente in contrasto con alcune mosse di Trump, però giustamente, insomma, essendo repubblicano non si è sentito di schierarsi contro il candidato ufficiale del Partito Repubblicano, però è stato completamente assente. Mi si nota di più se non vengo. Ecco. Allora, mi dici quei due numerini che mi hai detto prima? Sì, il titolo del Wall Street Journal, che è in edicola, è Swing States Are Tight, cioè gli stati in bilico sono molto vicini. In questo momento, per quel meccanismo farraginosissimo che risale veramente alla formazione degli Stati Uniti, dei grandi elettori, 224 per Joe Biden, 213 per Donald Trump. Ci sono quegli stati in bilico, infatti il titolo dell'editoriale è: chiunque prevalga, whoever prevails, a nation remains divided. La nazione resta divisa. Non vorrei essere insistente, ma spieghiamo perché all'ascoltatore che non l'ha capito, Trump con questi numeri però dice che invece lui ha vinto, perché ci sono... Cosa guarda Trump? Dunque, da una parte lui vorrebbe che il conteggio si fermasse ora, e se non si contano i voti che devono ancora essere scrutinati, che sono arrivati via mail, la Pennsylvania per esempio, che è il terzo stato più popoloso degli Stati Uniti e quindi ha molti grandi elettorali, va lui, è praticamente fatta. Quindi se si fermasse adesso il conteggio, lui di fatto, numeri alla mano, sarebbe già il vincitore. Probabilmente il suo timore, o il timore del suo entourage, dei suoi analisti, è che effettivamente, come sperano i democratici, questi voti da scrutinare, quelli arrivati per posta, favorirebbero in effetti i democratici in questi swing states di cui parla il Wall Street Journal. Siccome il Wall Street Journal anche nel penultimo editoriale non si è assolutamente schierato contro Trump o pro Biden, anzi ha detto: noi sappiamo bene che cos'è Donald Trump, non abbiamo ancora ben capito che cos'è Joe Biden o che cosa dovremmo aspettarci da lui. Quindi il fatto che titoli in maniera così chiara, cioè che certifichi l'incertezza in questo momento dell'elezione, cozza un po' con la certezza che invece ha mostrato Donald Trump, di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Vogliamo dire anche qualche altro titolo dei giornali di oggi, nonostante insomma il ciclone elettorale? Sì, lo stesso Wall Street Journal mette anche in prima pagina una notizia che non è l'apertura, ma è invece l'apertura di Financial Times, che con una mossa abbastanza inattesa delle autorità di regolazione della borsa di Pechino, è stata fermata questa IPO, questa offerta pubblica di acquisto, questo debutto in borsa di Ant, che è il braccio dei pagamenti del gigante Alibaba. Era un IPO da 37 miliardi di dollari, perché ci sarebbero delle irregolarità. Vi dico, è una cosa che magari a chi non segue la finanza può sembrare così, vabbè, che problema c'è? Il fatto che Financial Times e Wall Street Journal ci titolino significa anche, e si legge negli articoli, che evidentemente anche la Cina ha deciso di apparire un paese, quindi un'autorità di controllo delle borse e dei mercati finanziari, che si dà delle regole, soprattutto che le vuole far rispettare. Siccome appunto a tutti era sembrata un IPO fin troppo ipervalutata, forse questo è un segnale a chi vuole ascoltare che Pechino vuole anche guadagnarsi una reputazione di trasparenza per quanto riguarda i mercati finanziari. Giornali europei anche? Giornali europei, abbiamo naturalmente gli strascichi del terribile attentato in Austria. E molto interessante la lettura che ne fanno i giornali francesi. Le Figaro ha una foto in prima pagina dei due candidati alla presidenza, ma il titolo principale è: perché l'Austria è al centro dell'attenzione del terrorismo islamico. Secondo la lettura di Le Figaro, lo sappiamo, l'Austria di fatto era stata finora immune, il fondamentalismo islamico, e sappiamo che c'è una rivendicazione ufficiale, ha approfittato anche di questo momento di grande attenzione sulla pandemia, di emergenza economica, sociale, per infilarsi in quello che sembrava appunto un territorio immune dal pericolo del terrorismo islamico, che loro naturalmente non chiamano terrorismo islamico, ma chiamano appunto l'islamizzazione dei paesi infedeli. E secondo Le Figaro è molto importante che in questo momento, naturalmente altrettanto difficile, i governi, e in Francia Macron ci sta provando, concentrino le energie che restano e che non servono per combattere la pandemia, per veramente sconfiggere le cellule e dare più potere, più strumenti ai servizi segreti, perché questi lupi solitari, che poi godono delle rivendicazioni, della protezione dei punti di riferimento dell'ex, diciamo, ISIS, o che comunque sedicente ISIS, Stato Islamico, sono ancora un pericolo molto reale. Questo è veramente per tutti i giornali francesi, che naturalmente, essendo anche loro freschi di attentati di matrice islamica, sono molto sensibili al tema. Com'è andata l'operazione Diego Armando? Qui naturalmente c'è una grande ansia in Argentina, e insomma fa un po', è proprio il destino così ingiusto forse, perché tutti i giornali argentini, a parte il fatto che sappiamo appena compiuto 60 anni ed è stato super celebrato, è caduto in casa, è stata una banale caduta in casa, quindi non legato per una volta questo problema di salute alle sue tante sregolatezze. È caduto in casa, e come a volte succede quando uno batte la testa, non pensa che potrebbe essere qualcosa di grave, però l'operazione pare andata bene. Adesso vediamo, naturalmente Diego Armando Maradona ha un quadro diciamo clinico pregresso che importante, lo mette a rischio per qualsiasi cosa. Va bene, grazie Giulia Crivelli, è tutto per oggi, con Pietro La Corte in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14, poi naturalmente di nuovo domani con Effetto Giorno. Ciao da Alessio Maurizio.